Il punto di Stefano Folli. È anche una metafora, una drammatica allegoria della condizione italiana, l'immagine della grande nave coricata sul fianco per gli errori e la codardia di qualcuno che ora finalmente si rimette in sesto. Accade per gli sforzi ben coordinati e il coraggio di chi ha deciso di cancellare una pagina nera, di riscattare il peggio con il meglio. Si dirà che è troppo letterario, vuole paragonare la Concordia all'Italia. Eppure chissà quanti hanno avuto questo pensiero mentre un metro dopo l'altro la fiancata usciva dal mare e la resurrezione si compiva. È un soffio di ottimismo, mentre le cronache politiche ci parlano delle solite tensioni, di quello stato permanente di crisi, non crisi, in cui siamo immersi. Letta dice di non voler fare il parafulmine delle incertezze della maggioranza, delle inquietudini logoranti di Berlusconi, di Renzi e altri. Bene, ma allora agisca con vera determinazione, come gli ardimentosi dell'isola del Giglio, e metta tutti davanti alle loro responsabilità.